Before we continue with the story, listen to the present tense of the verb to work. Lavorare. Io lavoro. I work. Tu lavori. You work, informal. Lui lavora. He works. Lei lavora. She works, you work, formal. Noi lavoriamo. We work. Voi lavorate. You work, plural. Loro lavorano. They work.